In caso di sbadigli, il galateo prescrive di portarsi una mano alla bocca, mostrare la cavità orale spalancata, a meno che non si sia seduti sulla sedia del dentista, a quanto pare è disdicevole. Gli antropologi riconducono la cosa ad antiche credenze sul via vai degli spiriti nel corpo umano, no? Chiudere la bocca era una buona soluzione per evitare che uscissero quelli buoni ed entrassero quelli malvagi. Coprirsi gli occhi invece non è prescritto esplicitamente da nessun galateo, a meno che non ci si trovi di fronte improvvisamente un altro essere umano, per lo più di sesso opposto al proprio, in condizioni tali da provare vergogna di sé, non so, nella gestualità quotidiana. Tuttavia, nella gestualità quotidiana ci si copre gli occhi, anche in forma accennata, un po' stilizzata, quasi simbolica, lo si fa allorché si raccontano gesta goffe, disastri altrui, come a dire, roba da non guardare per la vergogna di essere lì, sapessi cosa non ha fatto il tale. Si porta rapidamente la mano in zona frontale, si chiudono un attimo gli occhi, si stringono le labbra, a volte basta il gesto, non si dice nulla e ci si capisce al volo. Quando ero bambino le banane costavano care, erano più buone, più colorate dentro, ma costavano care rispetto all'altra frutta. Ora, vabbè, la frutta è spesso orribile, velenosissima e cara. In compenso dobbiamo affrontare una ricca offerta di banane a prezzi che al confronto risultano accettabili. Anche dal punto di vista ideologico la banana, diciamo che ha mutato di stato. L'aura vagamente imperiale che dal fascismo in poi l'accompagnava ha lasciato il posto ai benefici del potassio. Mi adatto pertanto anch'io e compro banane. Ma se devo dire la verità, dal 1995 in pubblico non le mangio più con la gaia spensieratezza di prima. Nel 1995 uscì quel film di Verdone, Viaggi di nozze, in cui Lagerini dà vita ad un personaggio di moglie giovane incolta, annoiata, sempre in cerca col marito di nuove esperienze eccitanti. A un certo punto i due fingono di non conoscersi e recitano la scena di un approccio al ristorante, mangiando a tavoli separati. È lì che Lagerini dedica alla banana la sua sequenza memorabile. La sbuccia dall'alto e la porta alla bocca mantenendola impugnata da una mano, mentre usa l'altra per coprire la sua operazione agli occhi degli astanti. Compie una sorta di gestualità analoga a quella che il galateo prescrive per i rarissimi casi in cui è consentito l'uso di uno stecchino, no, per rimuovere qualche brandello di cibo rimasto malauguratamente tra i denti. Si ride e lo si ricorda l'episodio perché in una frazione di secondo la banana diventa simbolo di qualche cos'altro che in quanto tale è sottomesso ad una misura di galateo quantomeno impropria. Lo sceno qui viene repentinamente scavalcato dalla forza della contraddizione, ma proprio in virtù di ciò è appunto più facile ricordarsene. Ed è più difficile mangiare in pubblico una banana, come se questo gesto non fosse mai stato compiuto. Consiglio di amministrazione. Tutti i 16 membri presenti, prima di sedersi, hanno posato innanzi a sé il proprio cellulare, alla destra della cartellina che contiene l'ordine del giorno e la documentazione relativa alle delibere da adottare. Qualcuno ne ha posato due, tranne uno. Uno che non ne ha posato nessuno. La riunione comincia con la lettura del verbale della riunione precedente. Poi poi stranamente prende la parola un consigliere noto a tutti per aver sempre votato a favore della maggioranza e per non aver mai preso la parola prima. In pratica mai una volta se non vabbè per unirsi al coro degli auguri natalizi e pasquali e per dire buongiorno e buonasera. Dopo lunghi anni di onorevolissimo silenzio chiede addirittura, non senza una certa pomposità, che il suo intervento venga messo a verbale. Parla brevissimamente ed è chiaro a tutti che è mosso dalla ferma volontà di adulare il Presidente. Sì. Riferisce di un episodio di cui è stato testimone diretto, episodio dal quale gli altri consiglieri dovrebbero evincere quanto è buono il Presidente, quanto è intelligente, quanto è abile, quanto è lungimirante e quanto meriti pertanto di essere Presidente a vita. Lo sbigottito segretario mette scrupolosamente a verbale, mentre il consigliere si guarda attorno, soddisfatto, finalmente soddisfatto, cercando conforti. Conforti che non trova. Ratto come un furetto, chiede la parola a uno che da tempo covava bellicosi propositi di opposizione e ringrazia sentitamente il consigliere per quanto dichiarato e per quanto fatto mettere a verbale. Sì, perché alla luce di ulteriori documenti di cui il consigliere che ha parlato prima non poteva sapere l'esistenza, quanto affermato infatti dimostra esattamente il contrario, e cioè che il Presidente, alla luce proprio dell'episodio testé rivelato, il Presidente è falso, corrotto, manigoldo, truffaldino, tontolone e nemico del popolo. Un Presidente quindi che è chiaramente ora di cambiare. Altri, arresi all'evidenza, gli vanno dietro. Il volto del Presidente è sempre più bianco, mentre quello del primo consigliere è paonazzo. Le cose si stanno mettendo male e sembrano irrimediabili. Il primo consigliere a questo punto richiede la parola e annaspa, cerca un bicchiere d'acqua che non trova, ha quasi le lacrime agli occhi, dice di voler fare una dichiarazione, dice che il Presidente ha tutta la sua fiducia, che lui aveva chiesto la parola proprio perché il Consiglio sapesse cosa di buono aveva fatto, che lungi da lui ogni malevola intenzione. Ma ormai la frittata è fatta. Uno sguardo del Presidente medesimo lo interrompe, lo impappina, gli impone di tacere. Il consigliere, che non aveva mai preso la parola, ripiomba nel suo silenzio, che questa volta è abitato dalle più spaventevoli angosce e da oscuri rimorsi. Il consiglio di amministrazione va avanti di dramma in dramma. Accuse più e meno velate, minacce, tentativi di far balenare compromessi, nuove alleanze che si formano all'insegna della poca o nulla pietà per chi cade. In questa atmosfera da incubo, all'improvviso si mette in azione una suoneria stranamente alta e sincopata. È un telefono cellulare, uno dei tanti sul tavolo, uno di quelli che tutti, tranne uno, guardano con sospetto e meraviglia, escludendo che possa trattarsi del proprio, che ovviamente avevano avuto cura di spegnere. Tutti avevano avuto cura di spegnere il proprio cellulare, tranne il consigliere che non aveva mai parlato prima, che se n'era dimenticato, che tentava di ignorarlo, che poi ha tentato di spegnerlo senza azzeccare il tasto giusto, che e infine sotto lo sguardo sprezzante e furibondo del suo amico Presidente si è dovuto decidere a portarlo all'orecchio. E in quel momento, rosso in viso, prima ha portato una mano alla bocca per coprire il suo bofonchiamento di risposta e poi su fino agli occhi, come se potesse erigere una barriera invalicabile alla percezione altrui, come se potesse seppellirsi in qualche luogo con la propria vergogna. In chiusura di questo consiglio di amministrazione, a giochi fatti, tutte le delibere ordinarie vengono frettolosamente approvate. Tutte tranne una. Si trattava della delibera relativa all'acquisto di un telefono cellulare per il direttore dei corsi. Quando il segretario l'ha letta a voce alta, prima che i consiglieri alzassero la mano meccanicamente, ho detto no e ho chiesto la parola. Ho detto semplicemente questo: sono qui da 11 anni, vi sarei grato se qualcuno di lor signori volesse segnalarmi un compito che da me sia stato eseguito male o non eseguito affatto, perché non reperibile tramite telefono cellulare. D'accordo che il loro pensiero era occupato da ben altro, ma si sono guardati in faccia un po' stupiti, nessuno ha aperto bocca e il segretario è passato oltre. L'episodio tornerà in mente a qualcuno al momento del rinnovo del contratto.